Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio a tutti, 16.34, Luca Tremolada al microfono. Finalmente è tornato Luca Dello Jacopo con noi, buongiorno. Buongiorno, ma tra un po' ripartirà anche Luca Dello Jacopo. Esatto, perché andrà in Sudafrica per 2 settimane, mi sembra di capire, e racconterà cosa? Andrò a esplorare, ecco, sia le città che anche alcuni villaggi rurali e il modo in cui sono connessi attraverso internet e attraverso la telefonia mobile. Quindi un po' come l'innovazione nella tecnologia poi parte anche dal Sudafrica, una cosa che magari non è così esplorata, così... Quindi se volete convincerlo a non partire, avete capito che parte ma non sa se torna, se volete avete ancora una settimana, poco insomma, 10 giorni, pochi sì, giorni, ecco. Pochi giorni, però sarà molto difficile. Ed è sempre colpa di Dello Jacopo, di queste due storie, insomma una storia di Napoli, una storia di Milano, insomma due città che oggi si chiamano e si... c'è un gemellaggio, insomma la tiriamo un po' così, ma prima di raccontare queste due storie di innovazione sociale che vengono sia a Milano che a Roma, prima le news. Google prepara un computer tablet. A confermare l'indiscrezione è stato Eric Schmidt, amministratore delegato del motore di ricerca. L'hardware sarà fabbricato dalla taiwanese HTC, la prima a lanciare cellulari con il sistema operativo Android. Avrà uno schermo touchscreen, ma il progetto è ancora in fase di sviluppo. È una risposta diretta al lancio di iPad, andato a ruba dopo pochi giorni dall'arrivo nei negozi negli Stati Uniti. Shanghai punta su Facebook. La cinese Tencent ha investito 300 milioni di dollari in una società di telecomunicazioni russa, Digital Sky Technologies. Nel 2009 il colosso moscovita ha rastrellato le azioni di Facebook sul mercato, acquistandole dai dipendenti e da privati. Adesso ha in mano il 5% della rete sociale online. Tencent è un'azienda specializzata in videogiochi e gestisce la chat più utilizzata in Cina. Passiamo alle scienze. Scoperti in un tempo record nuovi geni con l'aiuto di un supercomputer. I ricercatori dell'Istituto di Bioinformatica della Virginia hanno utilizzato la potenza di calcolo distribuito in diverse università del mondo e in 12 ore hanno identificato geni finora ignoti. La banca dati consultata per l'analisi racchiude 1200 DNA di batteri. Allora andiamo a Napoli, andiamo a Città di Partenope e andiamo direttamente da Claudio Grelli, di mestiere. Buonasera. Imprenditore, buongiorno. Buonasera. Buonasera, allora Luca, che storia è questa che mi hai portato? È una storia che parte da internet e parte dall'emergenza dei rifiuti e che però approda poi nel centro di Napoli e anche poi nelle periferie, nei quartieri più degradati. È una storia di innovazione sociale, è una storia quindi della ricerca dei beni condivisi e quindi del valore poi del rispetto civico per gli altri, del valore della solidarietà e anche poi del tempo che ci si prende per se stessi. Allora, comune di partenope.it è l'indirizzo per saperne un qualche cosa di più, mentre se volete ascoltare sentite la scheda. Una comunità digitale e una scommessa sull'innovazione sociale a Napoli. La comunità si chiama Città di Partenope. Gli iscritti si impegnano a rispettare comportamenti etici. Hanno un giornale su internet e spazi di discussione. A lanciare l'iniziativa è stato Claudio Agrelli, imprenditore campano. L'intuizione è arrivata nel 2008 con l'apice dell'emergenza dei rifiuti. Agrelli ha riunito in poche ore 300 persone per costruire Città di Partenope e ha lanciato una carta di identità per gli iscritti con un dispositivo di identificazione in radiofrequenza. Il progetto napoletano ha vinto un premio agli MSI Awards e ha partecipato agli scambi culturali in Giappone per le manifestazioni durante l'anno dell'Italia. Allora, insomma, da fuori, da chi vi legge e chi vi segue via internet, pare un moto di indignazione, insomma, la spinta che ha portato la nascita di questo progetto, vero Agrelli? E invece è un'onda positiva. Poi è diventata un'onda positiva, ma insomma, la nascita è stata... come è nata, insomma? Ma questa è una sorta di rivoluzione identitaria, in quanto c'è una popolazione a Napoli che io chiamo i partenopei, che non si riconosce nel, nei luoghi comuni o del, diciamo, nella descrizione che si è avuta un po' attraverso i media, diciamo secondo quella sineddo che, per cui il napoletano è sempre quello che non rispetta le regole o truffaldino, questo nelle, quindi il luogo comune di Pulcinella un po'. Sì, sì, diciamo che la nostra popolazione, quella a cui mi riferisco, di solito rimane nel silenzio, lavora, produce e porta avanti la città. È la forza che fa sopravvivere questa città, costituita da persone semplicemente che rispettano le regole, che educano i figli, che innovano e producono. Ecco Grelli, ma com'è che vi certificate? Io sono qui sul vostro sito. Tra l'altro, innanzitutto, quanti siete? Siamo 3.400 oramai. Ecco, ma com'è che vi certificate? C'è un codice etico che si deve approvare, un codice etico abbastanza particolare perché è una sorta di decalogo del senso civico. Vi faccio qualche esempio: non butto la carta a terra, non passo con rosso, non parcheggio in seconda fila. Quindi tutto il contrario dei luoghi comuni che in genere poi sono attribuiti spesso ai napoletani, no? Quindi certo, esattamente il parcheggio. Il mio preferito è che non tradisco un'attesa, non tradisco chi mi dà fiducia, che è un aspetto fondamentale, cioè i partenopei mantengono i patti. Però 3.000 sono pochi, o sbaglio? Sono pochi per il momento ed è difficile diciamo conquistare grandi numeri attraverso una vera e propria identificazione che passa attraverso una scelta quasi, ecco, che ha a che fare con l'identità della persona. Questo non è un gruppo di Facebook, attenzione, questo è un modo per dire io mi riconosco come cittadino di Partenope, divento partenopeo. Ecco, resto e poi non restate soltanto su internet. Ecco, cambio, non restate soltanto cittadinanza. Sì, non restate soltanto su internet, quindi, cioè non è una comunità che è ferma sul ed è solo una discussione su internet, ma poi siete anche andati oltre, quindi siete scesi in strada, come avete fatto con una sorta di manifestazione per dare delle multe, giusto? Sì, sì, sono quella che nomina è una delle tante iniziative che abbiamo fatto, che era quella delle multe civiche, cioè per sanzionare i cittadini che non rispettavano determinate regole. Quindi il partenopeo poteva mettere delle multe, diciamo, a zero euro per comunicare appunto che il cittadino deve essere anche poi vigile sull'altro cittadino. Ecco, la città di Partenope in 18 mesi di vita ha fatto numerose iniziative e anche eventi sia a Napoli che all'estero. Uno non avete nominato a Tokyo, ma siamo stati presenti anche al Columbus. Ma nessuno vi dice ma che state facendo? Cioè che è una po' una, non so, un'iniziativa un po' curiosa, mi veniva da dire una cosa da napoletani, insomma, perché poi sto guardando dentro, cioè segnala un evento, petizioni collettive, denunce mediatiche, sto guardando chiaramente il sito, la Napoli che funziona, napoletano dentro è pulito, è curioso, insomma. Beh certo, è una cosa assolutamente nuova perché parla il linguaggio della comunicazione, non a caso diciamo nasce da un'agenzia di pubblicità che io dirigo, che si chiama Grelli e Basta. Che sembra un po' furbetta, ecco, cioè in realtà invece vi ponete, immagino, un obiettivo politico anche. Ma guardi, se si prende la parola politica in quanto alla sua radice polis, allora sì, nel senso che noi ci vogliamo occupare della città, ma soprattutto dei cittadini. Ecco, e voi siete andati anche a Forcella, che è un quartiere degradato di Napoli, per fare dei seminari, giusto? Sì, non vogliamo colorarci politicamente, se era quello che intendeva, ma anzi appunto... No, intendevo la politica e quelle sono le scelte che compie ogni secondo per noi, certo. Di Nova Lab 24, questo è molto chiaro. Esattamente, anche quando Luigi Merola, il prete che si batte quotidianamente contro la camorra, abbiamo fatto un'iniziativa per un ciclo di seminari sul senso civico ai bambini di Forcella. Città di Partenope non è un sito, Città di Partenope ha un sito, Città di Partenope si muove attraverso la rete, addirittura siamo riusciti ad arrivare in 106 paesi del mondo, interessando anche il network BBC che ha mandato i suoi inviati qui in intervistarci. Questo perché noi vogliamo fare una grande campagna pubblicitaria positiva per Napoli, o meglio una grande campagna pubblicitaria per una Napoli positiva, e contemporaneamente fare operazioni di diffusione del senso civico, perché crediamo che siano i cittadini che devono cambiare, non devono sempre aspettare dall'alto delle soluzioni. Quindi è un po' una politica simbolica, cioè è un po' l'idea che cambiando l'immagine anche della città si riesca poi anche a cambiare alcune dinamiche, alcune situazioni che comunque sembrano piuttosto radicate, situazioni quindi di degrado e di malcostume. Certo, e anzi è un modo anche per lanciare un trend, perché poi noi sappiamo bene che i trend sono le cose che viaggiano più velocemente, e allora noi evidenziando questo aspetto, appunto il senso civico, il sapersi comportare in una situazione diciamo a contatto con altre persone, è un modo di essere. Allora la condivisione di questo valore, l'esporre su internet e dire io sono cittadino di Partenope, nome e cognome, fa sì che automaticamente il cittadino che si iscrive in qualche modo esponendosi si impegna a rispettare queste regole. Ecco, l'altra regola che noi abbiamo qui è di dare la linea al traffico. Nova Lab 24. Da Napoli a Milano per parlare del Public Design Festival siamo in collegamento con Pasquale Cavucci, designer. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Buongiorno, sentiamo subito la scheda. Una maca grande quanto un posto macchina. Sull'asfalto un prato verde. È il progetto di Pasquale Covucci per l'arte pubblica in città appena brevettato. Diventa un'occasione per vivere gli spazi urbani e condividere tempo insieme. Covucci punta sulla sostenibilità e sul rispetto dell'ambiente. Per le sue opere ricicla materiali di scarto e utilizza cera d'api per proteggere le installazioni in ferro. La maca urbana fa parte delle iniziative per il Public Design Festival di Milano. Allora, con insomma, i giusti aggettivi, insomma, c'è una cosa in comune di queste due esperienze, Luca? Sì, ed è quella lì di design urbano, cioè di entrare nella città per cambiare qualcosa, per non viverla passivamente, ma per portare, diciamo, dei valori e delle idee. Nel caso poi appunto di Covucci ha anche una storia che purtroppo non c'è stato il tempo di raccontare, perché lui poi è partito come fabbro appunto e ha sviluppato, ecco, delle idee, ha costruito, diciamo, un percorso e l'amaca che adesso ha installato qui a Milano è anche un progetto appunto di public design. Ecco, publicdesignfestival.org è l'indirizzo internet. Covucci, cos'è il bed sharing? Io stavo navigando sul sito. Allora, bed sharing, questo è proprio Esterni, che è questa associazione culturale che gestisce il public design. Io sono un ospite, diciamo, un designer ospite, quindi questo non ha molto a che vedere con il progetto della macca. Comunque bed sharing è un progetto di ospitalità organizzato dal Public Design per i design, appunto, quelli che arrivano dall'estero o che vengono da fuori Milano. Ovviamente è un prezzo popolare, insomma, appunto per i giovani designer. Ci si scambia, cioè si trova da dormire sostanzialmente. Sì, praticamente dei privati, semplici cittadini danno la possibilità di ospitano magari sul divano letto o un po' pastorotto. Un ostello domestico. Sì. Sì. E la casa del designer? Questa è la casa ufficiale del Public Design, diciamo, è l'ostello, chiamiamo l'ostello, anche se poi loro chiamano la casa del designer, che è molto più bello, è il loro spazio ufficiale dove i designer ospiti appunto dormono e trascorrono del tempo insieme. Quindi se vogliono trovarvi cosa devono digitare? publicdesignfestival.org oppure? Sì. Oppure andando sul sito di Esterni, che sono appunto questa associazione culturale che gestisce vari eventi, quindi il Public Design e anche il Milano Film Festival, per dire. Ecco, allora, noi invece andiamo qui subito. Noi andiamo subito qui vicino per restare proprio in tema di design, perché c'è raggiunto Pierangelo Soldavini con in mano il Nova 24 che uscirà domani nelle edicole e che insomma parla a suo modo di disegno, anzi il titolo è disegno strategico. Sì, parliamo di design ovviamente in coincidenza col Salone del Mobile qui di Milano, che è un po' l'evento del momento, ma parliamo di design come piace noi di Nova, proprio nel senso di cui stavate parlando voi, di disegno, di disegnare un progetto, di progettazione che tiene conto di tutto. E ne abbiamo parlato, al di là di tutto quello che viene presentato appunto in questi giorni a Milano col Salone del Mobile, ma in ottica di valore aggiunto, cioè di vedere come le aziende che hanno saputo in questi anni o che sapranno nei prossimi elaborare un progetto attorno a un fattore, a un elemento di innovazione, hanno saputo anche in qualche modo contrastare la crisi. Un esempio banale, ma che secondo me è molto divertente, che non c'entra col design tradizionale da arredamento, i calzaturieri marchigiani. Colpiti dall'arrivo delle scarpe cinesi, così c'è stato chi ha saputo trasformare in opportunità e mettersi a fare delle linee di prodotti di qualità per i cinesi stessi, per il mercato cinese. Quindi come dire, è diventato un sapere artigiano che viene ritrasformato e viene riutilizzato. Poi dopo appunto ci sono storie di aziende che comunque hanno saputo contrastare la crisi, e chi è rimasto appiattito sul mass market è stato in qualche modo travolto dalla crisi. Chi invece ha saputo trovare degli elementi di novità. Sì, ricordiamo anche una cosa che alle volte la diamo un po' per scontata, che poi quando parliamo di questi temi, parlando di design, ma parlando anche poi di innovazione sociale, di fatto il lascito è quello dell'informatica, della scienza, della tecnologia, cioè la capacità di progettare un esperimento, la capacità di progettare un circuito si è trasferita in un certo senso nell'urbanistica, ma anche nelle pratiche sociali, e questa è un po' l'idea di design e di progettazione, ma anche di artigianato in un certo senso, anche questo di artigianato può essere forse un'idea, cioè di come una persona poi cerca di sviluppare delle capacità artigiane empiriche, diciamo, attraverso l'esperienza, e poi si trasforma anche in design, o appunto si trasforma anche in impresa, appunto, cioè, posso aggiungere, scusate, una cosa: è verissimo il discorso di sapere artigiani da recuperare in tutti i sensi, è fondamentale in qualsiasi ambito, anche il discorso delle piattaforme. Cioè, se abbiamo delle piattaforme che siano che sia la rete, che siano dei cittadini, che siano dei negozi che utilizzano i prodotti, questo facilita, nel senso che diventa un modo di scambio, diventa la somiglianza con l'informatica, nel senso che appunto fa circolare le idee, fa circolare i e la prodotti. Cosa che ci stupisce, perché poi dello Iaco in particolare ogni settimana trova questi casi, anch'io trovo questi casi, ci siamo immersi dentro, è che questa logica di riprogettare il territorio, riprogettare le cose, è molto più diffusa di quello che poi pensiamo, è molto più presente, nel senso che noi scopriamo praticamente ogni giorno un nuovo progetto, una nuova idea, e questo è assolutamente interessante. Sì, siamo un po' imprigionati magari nei luoghi comuni, come il luogo comune a cui si faceva riferimento prima di Napoletani, ma in luoghi comuni per cui alla fine vediamo tutto un po' più grigio di quello che è. Ecco, su quest'ultima cosa ti stanno sfumando, non so se hai notato, appena hai detto Napoletani. Io in realtà ringrazio Claudio Agrelli per aver partecipato e per aver raccontato insomma il loro progetto, il vostro progetto. Grazie. Grazie a voi. Ringrazio anche Pasquale Covucci, ricordo il sito, lo scriveremo anche su Nova Lab 24 e su Facebook, e ringrazio chiaramente Luca Dello Jacopo e Pierangelo Soldavini. Noi buonasera, ci sentiamo domani alle 16:30.